per sorpresa. Oggi ti ho visto su Tinder, non mi sono sorpreso. Tony, prendi il GT, ho bisogno di oggi, se no non mi calmo. Accelera, come se dietro avessimo le guardie. Fottute guardie, fottute guardie. Chiudi quella cazzo di bocca, aprila solo per mangiare come un'ostrica. Metti il limone e ti mangio come un'ostrica. Questa merda è un hobby, fottuto hobby. Questa merda è un fottuto. Questa merda è un hobby, fottuto hobby. Questa merda è un fottuto. Questa merda è un hobby. Kush sul mio palmo, fumo sotto le palme. Qui tutti stanno odiando, quindi non fidarti, non fidarti. Triplo 7, no, non puoi farne parte. I ragazzi hanno fame, 10 demoni a tavola. Kush sul mio palmo, fumo sotto le palme. Qui tutti stanno odiando, quindi non fidarti, non fidarti. Triplo 7, no, non puoi farne parte. I ragazzi hanno fame, 10 demoni a tavola. Da bambino ero in piazza sul Sario, mi chiamavano negro, non mi sono mai offeso. Fumo un blunt in tre tiri, faccio tre passi, mi prende il panico. Accettalo, non potrà mai essere Pyrax. Fottuto Pyrax, fottuto Pyrax. Apri quella cazzo di bocca, il mondo gira coi soldi come una trottola. E non puoi fuggire proprio come da Alcatraz. Questa merda è un hobby, fottuto hobby. Questa merda è un hobby. Tutto, questa mosta merda è una Kush sul mio palmo, fumo sotto le palme. Qui tutti stanno odiando, quindi non fidarti. Triplo 7, no, non puoi farne parte. I ragazzi hanno fame, 10 demoni a tavola. Kush sul mio palmo, fumo sotto le palme. Qui tutti stanno odiando, quindi non fidarti. Triplo 7, no, non puoi farne parte. I ragazzi hanno fame, 10 demoni a tavola. Ci trovi triple black, triplo set. Ci trovi triple black, triplo set.